Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Le 8 e 35 minuti, è un fine settimana di importante di riflessione sui temi dell'immigrazione, quello che si apre, per tanti motivi. Il 3 ottobre, cioè domani, ricorre l'anniversario di 7 anni fa, ci fu quel naufragio di Lampedusa che scosse tutti, 386 migranti morti, l'Europa che arriva sull'isola e dice è una questione della quale ci dobbiamo fare carico, l'idea che sarebbe cambiato qualcosa su quel fronte. A 7 anni di distanza qualcosa è cambiato certamente, ma non molto, se si considera per esempio che nella scorsa settimana ci sono stati almeno 200 morti lungo la rotta dalla Libia e l'Europa in 5 naufragi, secondo Alarm Phone. È un fine settimana particolare perché anche il fine settimana che vede l'udienza preliminare per Matteo Salvini, accusato di sequestro di persone in relazione alla vicenda della nave Gregoretti, ed è un fine settimana che ci dovrebbe portare a lunedì sera, nel quale dovrebbero essere modificati i decreti sicurezza. Ma lo saranno davvero? Perché il Movimento 5 Stelle su questo a quanto pare sta frenando nuovamente, mentre il PD cerca di accelerare. E sono ore ed è un fine settimana nel quale verrà prorogata presumibilmente, o meglio lunedì sera verrà prorogata presumibilmente l'emergenza sanitaria. Emergenza sanitaria che fa sì che dal 7 aprile i nostri porti siano considerati non sicuri e ancora una volta le navi delle ONG che raccolgono i migranti in mare sono di fatto spesso lasciate senza indicazioni. Cara Laura Boldrini, ex presidente della Camera, deputata del Partito Democratico, buongiorno e benvenuta. Sì, buongiorno a voi. È passato un anno e oltre un anno dall'insediamento di questo esecutivo e molti dicono, guardate che su quel fronte, sul fronte dei migranti, che era il fronte centrale, il fronte sul quale si è detto subito, no, che questa maggioranza sarebbe dovuta intervenire, si è fatto poco e si è fatto non molto diversamente da quanto ha fatto l'ex ministro dell'Interno. Beh, intanto mi lasci dire che mi fa piacere che lei abbia ricordato che il 3 ottobre, domani, è l'anniversario di quella terribile strage che nel 2013 portò appunto alla constatazione che 368 persone erano morte. Io da Presidente della Camera mi recai sull'isola di Lampedusa e poi venne anche il Presidente del Parlamento Europeo, Schulz. Ricordo anche che da quell'episodio drammatico scaturì l'operazione di ricerca e salvataggio Mare Nostrum, che mise appunto a disposizione del salvataggio molti mezzi della Guardia Costiera e della Marina Militare. Ricordo anche che nel marzo del 2016, poi, quindi 3 anni dopo, noi approvammo una legge per la giornata in memoria delle vittime dell'immigrazione. E questa legge per far capire che appunto quelle vittime non avevano, erano innocenti, sì. Quelle persone volevano solamente scappare o dalle guerre e quindi dalle persecuzioni individuali oppure sì. Da condizioni di fame. Ecco, quindi anche per riportare un po', diciamo, il baricentro, no, del fenomeno migratorio, perché sì. Negli ultimi anni è stato criminalizzato in toto, come se tutte sì. Le persone in fuga fossero una minaccia alla sicurezza del paese. E questo, sempre per rispondere alla sua domanda, ci arrivo, questo atteggiamento è stato sfruttato molto da chi ha anche, come dire, costruito una carriera, in particolare Matteo Salvini. Allora lei mi dice la discontinuità non c'è stata. Beh, io le ricordo che il Conte 1 li ha fatti, li ha concepiti questi decreti in sicurezza, io li chiamo perché hanno generato insicurezza. Ora c'è un governo che invece li vuole superare. Sì, li vuole, quindi... però mi scusi Boldrini, siamo qua appesi da quanto? Praticamente dall'inizio, dal varo di questo, sì. Dal varo di questo esecutivo. Da un anno, però allora per due motivi. Uno, perché i nostri partner di governo quei decreti li hanno votati, d'accordo? E sono resistenti al cambiamento. Quindi c'è una situazione all'interno della maggioranza per cui c'è un partner di peso nella maggioranza che finora ha opposto resistenza. Dopodiché, all'indomani delle elezioni regionali, il segretario Nicola Zingaretti, la prima cosa che ha detto anche rispetto all'esito di quella elezione, ha detto: adesso primo Consiglio dei Ministri, quei decreti devono essere assolutamente riconsiderati in maniera determinante. Poi ricordo che c'è stata la pandemia, sì, e la pandemia ha travolto tutto il programma, cioè le priorità si sono stravolte. Certo, però Boldrini mi permette, non c'è mai un seguito a questo ultimatum, no? Intendo che Zingaretti dice: questi decreti di sicurezza vanno cambiati subito. Il PD continua a dire: i decreti di sicurezza vanno cambiati. E poi però non vediamo mai un seguito a questa cosa. Guardi, io lo capisco, perché è la frustrazione di molti di noi. Però no, la mia non è una frustrazione, cioè da giornalista, no, è la perplessità. No, è la perplessità di fronte, capisce? Prego, sì, prego. Ecco, che la sua considerazione genera in me e in molti altri molta frustrazione. Però noi dobbiamo anche essere concreti, cioè in Parlamento ci vogliono i numeri, quindi se noi poi portiamo in Parlamento un decreto che revisiona drasticamente quei due decreti, spero che ci si riesca quanto prima, ma non ci sono i numeri, come dire, è una cosa che poi diventa assolutamente controproducente. Quindi il lavoro che si sta facendo quando si è in una coalizione è proprio quello di cercare una sintesi, quindi non sarà quella sintesi mai l'optimum per chi vuole o non fare niente o invece stracciare tutto, sarà un punto di caduta e comunque necessario e indispensabile. Quindi io mi auguro che quanto Zingaretti ha ribadito all'indomani delle elezioni europee, cioè che al primo Consiglio dei Ministri si rivedono questi decreti in maniera sostanziale, ecco, venga finalmente messo in atto. E se non avviene Boldrini? Ma io adesso, se non avviene, diciamo che dopo un'affermazione così e dopo che gli esiti elettorali hanno chiaramente dimostrato che il Movimento 5 Stelle non è più quello che è rappresentato dai numeri in Parlamento, io penso che prevarrà il buonsenso anche da parte loro. Non posso immaginare che rimangano del tutto indifferenti a questa richiesta, anche perché anche l'EU è dello stesso avviso, anche Italia Viva è dello stesso avviso, quindi a questo punto penso che non ci siano più scappatoie. Non ci siano più scappatoie, nemmeno per il Movimento 5 Stelle, dice lei. No. Senta, c'è poi l'altro fronte, quello che dicevo prima, anche in forza dell'emergenza Covid, dal 7 aprile i porti italiani vengono considerati porti non sicuri, e le navi in parte non vengono lasciate ancora a ballare là in mare, penso appunto alla Lancurdi, l'ultimo caso, per 4 giorni. Sì, tutto si è reso più complicato con il Covid, perché chiaramente le procedure sono cambiate. Quando una nave salva persone in mare, poi non può entrare in banchina, ci deve essere un trasferimento, ci deve essere la quarantena, tutte le navi devono essere sanificate ogni volta che entrano nuovi migranti, perché quelli di prima potrebbero aver avuto, devono essere tutti i locali sanificati, quindi tutto questo è molto più complesso. Però io penso che non esistano i porti chiusi, nel senso che non è una categoria giuridica. I porti chiusi sono un concetto politico che ha voluto inaugurare Matteo Salvini, ma è una prassi vietata per legge, e tra le eccezioni che giustificano il divieto di sbarco, non c'è certo quello di ricattare l'Unione Europea come nel caso di Salvini, ma motivi sanitari di questa portata, una pandemia, è un motivo per cui si deve trovare una procedura tale per garantire che venga rispettata la normativa sul Covid. Quindi siamo in un altro ambito, i porti non sono chiusi, i porti sono considerati oggi non sicuri in quanto c'è pandemia, che è un'altra storia, ma Salvini invece li voleva rendere chiusi per una categoria politica, perché a lui serviva questo per seguire il suo intento e il suo interesse personale, motivo per cui il Senato ha detto no all'immunità, quindi ha stabilito che doveva andare a processo, perché non c'era l'interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, e quindi come prevede questa legge dell'89, no? E quindi ha dato l'autorizzazione, ma non è che ha condannato Salvini il Senato, perché Salvini adesso va facendo la vittima e dice che no, tutti ce l'hanno con lui, ma il Senato ha solo detto che la magistratura faccia il suo corso, e mi sembra giustissimo. Allo stesso Salvini prima diceva voglio andare a processo, l'ha detto anche ha cambiato atteggiamento. Senta, mi si faccia fare un'ultima domanda sempre su questo tema, ed è sempre la questione del punto di caduta sulla modifica dei decreti sicurezza, perché ce n'è uno più avanzato che è quello che immaginate voi, e ce n'è uno minimo che è le modifiche sulla base delle indicazioni ricevute dal Presidente della Repubblica, dal Quirinale. Ecco, se si arrivasse a questa seconda ipotesi, lei come la giudicherebbe? Guardi, nel programma di governo c'è scritto a partire dai rilievi del Presidente della Repubblica. Quindi non vuol dire solamente i rilievi del Presidente della Repubblica, quelli sono doverosi farli, ma si dovrà andare ben oltre, perché abbiamo visto che i sindaci hanno più volte denunciato il fatto che con il divieto di iscrizione dei richiedenti asilo negli uffici delle anagrafi, loro non sanno più chi è nel territorio, e questo sì genera insicurezza. Togliere il permesso di soggiorno a migliaia di persone, come ha fatto Salvini togliendo la protezione umanitaria, questo sì genera ulteriori problematiche, perché quelle persone si dovranno nascondere, in quanto dall'oggi al domani sono diventate irregolari, senza che nessuno possa occuparsi più di loro. Quindi quel decreto, il decreto 1, ha creato molta insicurezza, e sono gli stessi antilocali, i sindaci, a chiederci con forza di rimetterci mano oltre i rilievi del Presidente della Repubblica. Quindi sicuramente si dovrà andare oltre, proprio per soddisfare esigenze concrete di sicurezza. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso! Su aruba.it